questo progetto nasce ormai 2 anni fa con un decreto del presidente Draghi, sostenuto dall'allora ministro della difesa Guidini, per realizzare questa nuova mega infrastruttura militare all'interno del parco di San Rossore, con una prima previsione all'interno di Coltano. Questo progetto era stato volutamente tenuto nascosto a tutte quante le forze politiche, e noi l'abbiamo scoperto, e da quando l'abbiamo scoperto è nato un grande movimento, il movimento No Bus, che ha di fatto bloccato fino ad oggi questo progetto. In questi mesi c'è stato un lungo tavolo interistituzionale che ha visto un accordo bipartisan tra il centrodestra e il centrosinistra per collocare questa nuova infrastruttura militare, che trasformerebbe Pisa nel più grande polo logistico italiano per la guerra, perché ci troviamo in un territorio in cui vi è l'aeroporto militare, da cui è un vero e proprio trampolino di lancio per le operazioni militari all'estero del nostro paese, ma al contempo c'è la base di Camp Darby. E sulla base di questo accordo interistituzionale, la collocazione definitiva che è stata individuata all'interno della base è proprio all'interno del cuore del parco di San Rossore. La cosa più scandalosa è che questa decisione viene su proposta proprio dal presidente dell'ente parco, su cui il movimento ha chiesto proprio le dimissioni. Il progetto iniziale aveva una previsione di stanziamenti di 190 milioni di euro che devono essere in primo luogo recuperate attraverso il fondo di coesione sociale. Attraverso le nostre denunce queste risorse furono tolte, e oggi invece il governo Meloni stanzia una prima tranche di finanziamenti, ma è la cosa importante a sottolineare è da dove vengono prese queste risorse, ovvero viene confermato esattamente quello che noi abbiamo denunciato in tutti quanti questi anni, cioè si aumenta la spesa militare in maniera surrettizia. Che queste risorse vanno direttamente al Ministero delle Infrastrutture, all'interno del disegno di legge all'articolo 5, la realizzazione della base con questi 20 milioni è inserita all'interno di una serie di altre infrastrutture viarie del nostro paese. Quindi si utilizzano e si sottraggono, diciamo in maniera esplicita, si rubano delle risorse del Ministero delle Infrastrutture che servirebbero per la casa, per il lavoro, e ancora di queste settimane la conferma da parte del Ministro Salvini della cancellazione del fondo per la morosità incolpevole, e al contempo da quelle stesse risorse invece si utilizzano per una base militare, che significa non solo un sostegno all'economia di guerra ma anche una devastazione ambientale, perché ribadisco ci troviamo all'interno di un'area delicatissima come quella del parco di San Rossore. Quindi quello che noi ovviamente faremo nei prossimi giorni, già nella serata di lunedì sera c'è un nuovo appuntamento del movimento No Bus, è proseguire la grande mobilitazione che abbiamo fatto in questi anni. Il parco di San Rossore ha un patrimonio naturalistico importante, tra l'altro su internet ho visto che è area naturalistica protetta, quindi quanto impatterà a livello ambientale? Immagino parecchio. Esattamente, la cosa più grave è che questa scelta di questa collocazione, come dicevo prima, è stata proposta dal presidente dell'ente parco con la piena complicità del presidente della regione del Partito Democratico Eugenio Giani e l'accordo con il sindaco di Pisa Michele Conti, che invece è della Lega. Quindi sostanzialmente siamo a un ribaltamento di quello che dovrebbero essere le politiche di tutela del parco. Noi abbiamo denunciato insieme all'associazione ambientaliste e nelle ultime settimane abbiamo rilanciato un grande appello per la tutela del parco di San Rossore, e il movimento No Bus a partire dall'anno scorso, proprio ai confini dell'area dove dovrebbe sorgere la nuova base, ovvero l'area ex CISAM, dove c'è un ex reattore nucleare ormai dismesso, ha dato vita nelle scorse settimane a un presidio di pace, e nei prossimi giorni daremo nuovamente appuntamento alla cittadinanza per la mobilitazione all'interno di questo luogo. E l'unica cosa che noi riteniamo è che una grande mobilitazione sia l'unica strada possibile di fronte a un fronte compatto che ancora investe milioni e milioni di euro sull'economia di guerra e militarizza il nostro territorio, e che al contempo prova a utilizzare il territorio stesso come se fosse le carte del Monopoli, perché si inneggia fatiche e compensazioni per cui verrebbero fatte nuove piantumazioni di alberi, ma la vera e unica realtà è che quel parco verrebbe devastato. Avete speranze, si può ancora fermare il progetto? Assolutamente, il progetto ad oggi non c'è neanche un cantiere, non c'è assolutamente nulla, ci sono stanziamenti 20 milioni di euro, ed è una grande battaglia di carattere nazionale. In questi 2 anni il movimento No Bus è stato capace di grandissime sinergie con una grande manifestazione di 10.000 persone 2 anni fa a Coltano, un appuntamento importante sempre nell'area fra Camp Darby e l'area dove nascerà la nuova base, e un appuntamento nazionale che ha visto migliaia di persone in piazza, che si chiama Fermare l'Escalation, che abbiamo fatto nello scorso autunno. Noi siamo convinti che la capacità di far convergere le diverse battaglie, diverse culture, quella ambientalista, quella antimilitarista, quella pacifista, sia la strada opportuna e l'unica strada possibile, per cui il messaggio che noi mandiamo al governo Meloni, al presidente della regione, al sindaco di Pisa, è che quella base non sarà fatta né a Pisa, né a Pontedera, né in nessun altro luogo.